nessuno mai noterà gli SOS di fumo della mia sigaretta, malgrado il flusso incessante di auto e i messaggi affidati ad una buona sorte che non ho, sigillati in bottiglie di plastica col tappo a vite gettate qui da qualcuno di voi. Fatevi fottere voi e le vostre bambine di te, non sapete ciò che rischiate. Quando finirò le paglie mi trasformerò in un mostro sanguinario che sgozza le sue vittime con i denti al semaforo rosso, rosso come il vostro sangue, rosso come, rosso come, rosso come. Se solo provaste a guardarmi negli occhi, notereste i lampi, i tuoni, la tempesta nella mia testa. A me resta qualche sigaretta.